Littizzetto. Diciamo una roba anche di questo signore della Lega, buon anno, che ha dichiarato, avete sentito? Sì. Che la Padania esiste perché? Perché esiste il grana padano. Se c'è il grana padano vuol dire che esiste la Padania. Vogliamo fare un minuto di silenzio e pensare tantissimo che noi questo qua lo paghiamo? A me piace la Littizzetto perché è una comunista piena di soldi e che spara sempre contro tutti. Ma che vuol dire? Ma se guardasse un po' in faccia la Littizzetto, ma è una comunista, è una che fa sempre tutti sti versi, va lì da Fazio, fa la fighetta. Ma se guardasse addosso. Ma perché si guardasse in faccia? Perché è brutta? Ma per me è un cesso. Che vuol dire un cesso? Ma che dice? Ma è veramente un maleducato? No, lei. Per me è un cesso. E sarà bello lei con ma quella io non faccia. Sono bello, ma sono consapevole di essere. Ma come si permette? Perché è comunista? Perché la Littizzetto, come tanti, hanno il portafoglio a destra e fanno la politica ma di sinistra. Ma cosa c'entra? Perché uno di sinistra deve mangiare pane e cipolla. Ma no, però fanno i comunisti e poi fanno tutti gli schizzinosi, fanno sempre gli snob. Però ma la Littizzetto, invece di parlare così, mi invitasse insieme a Fazio nella sua trasmissione, poi vediamo e gli spiegherò perché ho detto questa cosa, perché le provocazioni esistono, non è che le cazzate loro le possono dire, io posso fare delle provocazioni per spiegare che la Padania esiste. Lei ha dato del cesso alla signora Littizzetto. È vero, ma lei non uscirebbe mai con una come la Littizzetto? Sì, uscirei per darle il cane da portare in giro. Come il cane? Ma no, è di una volgarità assoluta. Perché? Che vuol dire il cane da portare in giro? Ma chi porta il cane? Snob proprio. Sì, sì, la Littizzetto è una persona. No, lei snob, ma come? Che la usa come una golf, non ho capito. No, ma non mi piace la Littizzetto. Ho capito, ma cosa vuol dire le dare il cane da portare in giro? Faccio un giro con il cane. Mi ha detto Cruciani, usciresti con la Littizzetto? Sì, gli darei il cane da portare in giro. Io intanto. Sono agghiacciato. E intanto lei che fa? Mentre lei porta in giro il cane, scusi. La prendo in giro. Ma la Littizzetto, ma scusate, guadagna milioni di euro. Ma cosa fa la pubblicità della Coop alla televisione, poi viene a raccontare alla televisione questo qui lo paghiamo, perché lei viene pagata da chi? La Rai viene la paga dal mercato, viene pagata dal mercato. Sì, viene pagata dal mercato anche con i miei soldi e con i soldi di tanti contribuenti. No, sì, il mercato sì, non c'è no, soldi. Perché la Rai è pagata da tutti gli italiani. Chiaro? Quindi la signora Dunque, lei ha detto che ci dobbiamo vergognare perché noi paghiamo lei. Ma lei sa che cosa faccio io? No, sa che io sono uno dei più presenti in Parlamento, sa che faccio sindaco gratis da 4 anni, sa che comunque cerco di impegnarmi e sono sindaco da 18 anni. Che cacchio ne sa la Littizzetto? Quella è una comunista con i paraocchi, faziosa, che pensa sempre di sparare contro quelli che non ama. Eppure brutta, dice lei. È un cesso. Vabbè, no, ma ho capito, ma questo che c'entra che è un cesso o no? Scusi, che c'entra? Che comunista, questa è una sua idea, secondo me è sbagliata, ma che c'entra che è brutta, che è un cesso? Ma poi non è vero, tra l'altro. Ma per me è un cesso. Vabbè, ho capito, ma dice, cosa c'entra? Ma è maleducato, non è un argomento. Ma perché da lei è utilizzare. Stata educata nei miei confronti? Mi ha detto, facciamo un minuto ha di silenzio. Ha fatto una battuta, perché... ma anche per me è una battuta. Anche verosimile, peraltro. Non si capisce perché la paghiamo, questo è sicuro. No, ma che c'entra questo adesso? Beh, dovessimo fare, come dire, un sondaggio, no? Sì. E dire i soldi che diamo al signor Bonanno sono ben spesi. Vabbè, o questo, no? Questo chi lo decide? Lo decidi tu? No, però dico che la signora Littizzetto è sul mercato almeno. Perché Berlusconi? Perché io non sono sul mercato, perché io non sono votato dalla gente. Ma su quale? Intanto è nominato. No, primo. Calma, lei è nominato. Io faccio il sindaco a 18 anni, sono sempre stato votato direttamente. Ma non dire cretinate tu, Parenzo. Che poi Parenzo, se io mi alzo, ti do un calcio nel sedere.